Gabriele Vasquez, buon pomeriggio, come va? Ben arrivato. Tutto bene, grazie. Allora, i film di questa settimana, che sono usciti ieri in realtà. Esatto, bravo, vedo che non ti lasci ingannare neanche un po' proprio dal fatto che è cambiato tutto e i film adesso non escono più di venerdì, ma di giovedì. Ci sono trasmissioni che appunto vanno il giovedì. Sì, ma questo rompe con la tradizione, le nostre tradizioni, queste belle tradizioni. Come possiamo così, con un colpo di spugna, buttarle via? E infatti è un pezzo di storia questa trasmissione, è vero, è vero. Allora, lo sceriffone con la stella proprio qua sul petto, e parliamo di Arnold Schwarzenegger, The Last Stand, il primo film dopo quanti anni? Dopo esattamente 10 anni. Lui ha fatto il... In realtà è il primo film da protagonista, perché ha già fatto I Mercenari. Sì, una parte. Esatto. Proprio, questo è un ritorno al suo classico, cioè al repertorio base, capito? Il repertorio base che prevede mitra M60, cazzottoni e frasi. La frase quella... Pam! Ah, boom! Esatto. Allora, che cos'è The Last... Io ti spiazzo in due. Sì, esatto, è così. In questa ne dice una, vabbè. Allora, che cos'è The Last Stand? Intanto, vergognati perché si è fatto la foto e l'hai postata subito su Facebook con Arnoldo. Beh, perché è venuto anche a Roma, poi mi ha sentito, poi sai, lui lo devi portare in giro perché non c'ha la patente, non guida, allora il motorino dietro, poi è grosso, si muove male, non te lo sto a dire. Mamma mia. Ha fatto il solito macello, direi. Vabbè, comunque. Il solito fracassone. Sì, però gli si vuole bene, grande e grosso, c'ha il cuore grosso, gli si vuole bene. Vabbè. Allora, questo film è, come dicevamo tu, lui fa lo sceriffo, la trama è stupenda, cioè la trama è veramente, chi gli vengono in mente queste cose? Allora, perché è il classico. Allora, lui è un ex del antidroga che ha avuto una brutta storia perché in un'imboscata sono morti tutti i suoi compagni, lui si è salvato, voleva denunciare dei brogli interni, l'hanno estromesso, una storiaccia, quindi si è stufato di questo mondo che ormai è marcio e se ne va a fare lo sceriffo in un paese in mezzo al deserto, perché voglio vivere tranquillo. Voglio fare il poliziotto, cioè... La vita tranquilla. L'ubriaco, lo metto così, sì, in guardina. Capito. Poi ci stanno la brava gente di questi paesi americani. Col fucile in braccio. Con la pistola. Nel film è così, tutti hanno un fucile in casa, tutti, dal primo all'ultimo. E non è vista come una cosa ironica. Chiaramente, cosa succede? Un mega evaso dell'FBI, uno dei più pericolosi criminali degli Stati Uniti d'America, evade e vuole scappare con tutto il suo esercito privato in Messico. Vediamo se indovini. Tra dove sta lui e il Messico, quale piccolo paesino desertico c'è, quello? Per giunta, lui dovrà passare attraverso il paesino dove Schwarzenegger è sindaco in un giorno in cui quasi tutto il paesino se n'è andato, perché vanno a vedere una partita di football tutti insieme in un'altra parte. Quindi praticamente non c'è quasi nessuno se non Arnold con un fucile a canne mozze. E basta? Sì, che chiaramente non si tirerà indietro. No, certo. Dall'FBI gli dicono: si levi di torno, questa è un'operazione di polizia. E lui gli attacca in faccia, chiaramente. Stupendo. Raccimola 3-4 disperati che sono rimasti, tra cui Johnny Knoxville, che ve lo ricorderete perché è uno dei più famosi di quelli di Jackass. Ah, quello che si spacca con delle cose folli. Che fa qui il matto, fa quello che c'ha di nascosto dalla polizia, chiaramente un arsenale di armi. C'è sempre quello. E lui chiaramente si rivolgerà a Johnny Knoxville quando fa la preparazione. Come avete capito, praticamente è un western, non ci stanno i cavalli, ci stanno le macchine, ma praticamente è un western. Per lui è lo sceriffo, c'è le cose, la città asserragliata, arrivano i criminali e si comincia a sparare. E chiaramente col criminale, quello più grosso di tutti, sul confine del Messico ci sarà succede lo showdown, quello che succede. Uno contro uno e se le danno che è un piacere. Che miseria. Duello al sole proprio. Tra mezzogiorno di fuoco e cose, un dollaro d'onore. Arnold. Alla fine te lo dico, alla fine ci sta. Ma lui è sempre stato imbalsamato. È casa sua, esatto. Alla fine ci sta tutto. È sempre un Terminator, cioè esatto. Il Terminator, quindi c'è una scena bellissima in cui a un certo punto uno di questi criminali di questo esercito privato imbocca in casa di una vecchina per prendere da dietro uno degli uomini disperati di Arnold. E questa vecchina gli fa: si levi lei, questa è violazione di proprietà. E questo qui dice: ma insomma, la manda a quel paese, ma neanche se la fila, perché andando a sparare. La vecchina tira fuori un fucile a canne mozze, gli spara, lui per il colpo, chiaramente maciullato, esce fuori dalla finestra. Arnold se ne accorge e la vecchina gli fa: li vada a prendere. E lui gli risponde: sì. Ma ancora più bello oggi, me lo vado a vedere. Quando me lo Arnold vedere. È arrivato, no, me lo vado a vedere. Gli è stato chiesto, cioè, senta, lei poi ha anche un passato da politico, cioè se, politico serio, è stato governatore della California, mica pizza e fichi. Con tutto quello che è successo adesso in America, Obama ha appena detto che bisogna controllare le armi, le cose, certo, nel suo film la vecchina spara, ma cioè, tutti hanno un'arma, certo, insomma, forse non è proprio il massimo dell'indicato. E lui ha detto beh, le cose che si dicono, che dicono i politici, cioè lui parla come un politico, ovviamente. È stato un politico per tanti anni. Dice che bisogna separare intrattenimento e realtà, che poi è vero, per carità. Però dice anche che nel film quella era tutta gente cattiva che voleva solo fare del male. Ed è quella è una scena divertente, la scena della vecchina, che comunque ha risolto il problema. questa è la valutazione. A quel punto io chiaramente gli ho stretto la mano, perché questo me l'ha chiamato. È chiaro. È stata un'altra bella domanda, è stata. Non tu, chiaramente fatta da me, certo, io partorisco così, capito? Che è stata 10 anni fa, quando lui fece l'ultimo film, che era quello prima di fare il governatore, che era Terminator 3. Si parlava con lui e anche con i vari Stallone, quando poi venivano, del cosa succederà adesso, cioè la vostra eredità, no? A chi va a finire? I grandi eroi di azione, adesso voi ci avete un'età, insomma, cos'è? No. Adesso chi arriverà? Sono passati 10 anni e sono di nuovo loro. Esatto. E lui ha fatto proprio, ha annuito, ha detto proprio yeah. Ha detto sì, siamo sempre noi, e sai perché? Proprio così, indicandomi col dito. Porco cane. Gabriele Vasquez, buon pomeriggio, come va? Ben arrivato. Tutto bene, grazie. Allora, i filmi di questa settimana, che sono usciti ieri in realtà. Esatto, bravo, vedo che non ti lasci ingannare neanche un po' proprio dal fatto che è cambiato tutto e i film adesso non escono più di venerdì, ma di giovedì. Ci sono trasmissioni che appunto vanno il giovedì. Sì, ma questo rompe con la tradizione, le nostre tradizioni, queste belle tradizioni, come possiamo così, con un colpo di spugna, buttarle via? E infatti è un pezzo di storia questa trasmissione, è vero, è vero. Allora, lo sceriffone con la stella proprio qua sul petto, e parliamo di Arnold Schwarzenegger, The Last Stand, il primo film dopo quanti anni? Dopo esattamente 10 anni. Lui ha fatto il... In realtà è il primo film da protagonista, perché ha già fatto I Mercenari, sì, una parte, pezzettino, esatto. Questo è un ritorno al suo classico, cioè al repertorio base, capito? Il repertorio base che prevede mitra M60, cazzottoni e frasi, capito? La frase quella pam, quel boom. Esatto. Allora, che cos'è The Last... Io ti spiazzo in due. Sì, esatto, vedi. Così in questa ne dice una, vabbè. Allora, che cos'è The Last Stand? Intanto vergognati, perché si è fatto la foto e l'hai postata subito su Facebook con Arnoldo. Beh, perché è venuto anche a Roma, poi mi ha sentito, poi sai, lui lo devi portare in giro perché non c'ha la patente, non guida, allora il motorino dietro, poi è grosso, si muove male, insomma, un casino. Non te lo sto a dire. Mamma mia. Ha fatto il solito macello, direi. Vabbè, comunque. Il

cosa succederà adesso, cioè la vostra eredità, no? A chi va a finire? I grandi eroi di azione, adesso voi ci avete un'età, insomma, cos'è? No. Adesso chi arriverà? Sono passati 10 anni e sono di nuovo loro. Esatto. E lui ha fatto proprio, ha annuito, ha detto proprio yeah, ha detto sì, siamo sempre noi, e sai perché? Proprio così, indicandomi col dito. Porco cane. E sai perché? Perché noi siamo gente preparata. Cioè, ho detto, Stallone è uno che tira di box per davvero. Van Damme ha fatto arti marziali tutta la vita. Io, per larga parte della mia vita, tiravo su 200 kg alla pressa. E anche se abbiamo 60 anni, la gente sa che noi siamo la the real deal, capito? La roba vera, la gente vera. Guarda, alla fine lo volevo votare. Mamma mia. Volevo votarlo. Però me lo vedi per forza, eh. Eccolo. Si presenta, eh? Si presenta, sai con chi? Movimento civico, con chi? Col mio partito. Ah, l'hai convinto poi alla fine? Sì, sì, socialismo monarchico. Che è un po' una contraddizione, però va bene. Lo voto, lo voterò. Nel collegio mio, qui a Roma, lo voto. Sì, sì, nel collegio dove andavo io da piccolo, al collegio proprio. Va bene, detto questo, però, insomma, film esce quando? Oh, questa è un'ottima domanda. Il film, te lo dico subito, esce il 31 gennaio, quindi tra 2 settimane. Ah, perfetto. E bene. Non è andato bene in America, attenzione. Aia. Infatti lui era un po'... Era un po'... Secondo me lo hanno boicottato. Quando gli ho stretto la mano tipo fascisti, no? Che dai la mano sull'avambraccio, ho sentito che era un po', capito? Sì. Cioè, che c'è? Te sento moscio, Arnold. Ho sentito che era un po'... Vabbè. Però adesso esce anche Red 2. C'è anche lui o sbaglio? No, c'è solo Bruce. Bene, c'è Bruce Willis e un po' di altri supereroi. Io ho visto un gran bel film, attenzione, che anche questo esce, se non sbaglio, il giorno stesso, sì, esce lo stesso giorno del film di Arnold, cioè sempre il 31 gennaio, però è un genere diverso, diciamo che può piacere a più pubblici diversi rispetto a quello di Arnold, che invece ha un target bello preciso, che è Looper. Looper è un film molto noto perché è uscito tanto tempo fa in America, per tanto tempo fa intendo qualche mese, 4-5 mesi fa in America, e se ne è parlato tantissimo e giustamente. È un film di fantascienza molto forte con Bruce Willis, però non vi immaginate il tipico film di Bruce Willis, è un film di fantascienza molto intelligente, insomma la miglior fantascienza. Che racconta? Racconta del in un futuro tipo, se non sbaglio, del 2040, ci sono questi assassini a pagamento che ammazzano gente che viene da un futuro ancora più futuro, cioè dal 2070, perché nel 2070, in questo futuro ancora più remoto, è stato inventato il viaggio nel tempo. E siccome ogni essere umano in quel futuro lontano ha un chip dentro di sé, è impossibile sbarazzarsi dei cadaveri. Bello. Quindi la malavita, per sbarazzarsi dei cadaveri, prende questi qua, li manda indietro di 30 anni, quando ancora non c'è, queste cose si potevano fare, e a tutta questa malavita del futuro remoto, a tutta una filiale in 30 anni indietro, nel 2040, a tutta una sua filiale, fatta di questi killer che sanno semplicemente, guarda, domani alle 11.30 troviti lì, compare di botto questa persona incappucciata, e questi ti sparano, e si devono sbarazzare del cadavere, fine, e prendono i soldi. Tutti questi killer sanno una cosa però, sanno che poi loro, di lì a 30 anni, saranno presi da questa organizzazione, mandati anche loro indietro nel tempo e fatti uccidere da se stessi. Quindi arriverà un momento in cui tu ucciderai il te stesso del futuro. Perché questo? Perché così chiudi il cerchio e non ci stanno possibilità, non scappi, non fai niente, cioè sei loro. Però tu sai che quando hai ucciso il te del futuro, prendi tantissimi soldi, più tutti quelli che avevi incamerato, e sai che hai 30 anni, puoi vivere 30 anni ai massimi livelli. Poi c'hai un'età, vieni mandato indietro, muori ed è chiuso il cerchio. È una scelta di vita che fai, che loro accettano, lo sanno benissimo i killer, l'accettano. Ah, lo sanno. Sì, sì, e sanno che a un certo punto arriverà il giorno che fai fuori te stesso. Chiaramente, questo è proprio l'inizio del film, questo dalle premesse. Chiaramente il film inizia che questo protagonista si troverà a un certo punto, compare il se stesso del futuro, che è Bruce Willis, e come immaginate Bruce Willis non ci sta a morire. Ovviamente vabbè, non però non ci sta per niente a morire. Si fa venire un'idea grandissima per non farsi uccidere in quel microsecondo che passa tra quando compare e quando lo spara, e da lì parte veramente un signor film, perché poi c'è una visione di futuro, c'è questo futuro bellissimo in cui chiaramente tutto è andato storto, in cui tutti girano armati, in cui c'è un divario tra poveri e ricchi pazzesco, una malavita assurda, alcuni hanno dei piccoli poteri di telecinesi, ma molto piccoli, niente di clamoroso. È veramente una visione complessa e interessante, e quel che succede, lo potete immaginare, è che nel momento in cui uno di questi sfugge alla malavita, la malavita non ci ha pensato due volte a inseguirlo, perché poi deve succederà il patatrac. Devo dire una cosa, Cioè, vedrete poi il, siccome ti fanno vedere all'inizio film che succede se il te del futuro scappa, capita un altro, capita e ti ah, fanno, lo fanno vedere prima. Esatto, ti fanno capire come si vendica la malavita. E devo dire, non ve lo dico perché è una bella sorpresa, ma è veramente tremendo. Cioè, raramente io mi ero così impressionato. È una cosa veramente spaventosa, le vendette che hanno. E sono tutte vendette che hanno a che vedere col fatto che se io faccio male a te adesso, il te del futuro subirà questa conseguenza. Ah, chiaramente, ecco. Cioè, se io ti taglio una cosa, quello del futuro gli compare una cicatrice. Perché chiaramente in 30 anni si è cicatrizzata. Certo, certo, certo. Su questo presupposto fanno delle cose terribili. Insomma, veramente è un gran bel film. Ha solo un difetto, solo uno. Ecco. Oh, io già mi vedevo lì, bello, pronto a andarlo a vedere. Per alcuni potrebbe non essere un difetto, lo dico subito. Oh. È che ci sono due film in uno. Cioè, questo è un film, è così. A metà cambia completamente. Non vi posso dire che diventa perché vi rovinerei troppe cose, ma cambia completamente. Anche il secondo film, che praticamente succede normalmente a terra, si diventa un secondo film, è molto bello. Però un po' ti dispiace che non sviluppano la prima storia. È un film comunque che io consiglio caldamente, molto molto bello. Film dell'anno? Si chiama Looper. Beh, sicuro è tra gli indipendenti piccoli, perché poi è un film fatto, nonostante ci sia Bruce Willis, è un film fatto con poco. Tra i piccoli è sicuramente uno dei più belli di quest'annata che ho visto. Mi stai sorprendendo con questo film. Tra l'altro abbiamo visto il trailer che insomma invogliava, eh. Eh sì sì, ma è veramente, capita raramente che poi la fantascienza riesca a essere, oltre che avventurosa, per carità, ad avere una bella visione di futuro, di come potrebbero andare, chiaramente male, però di come potrebbero andare le cose. Ma al box office come mi è andata? Ah, il box office. Sai, io ho un sacco di film lì messi, pronti ad agire. Quote azionarie, però. Allora, il box office è andato che Django ha spaccato tutto. È andato molto, molto bene. Ha fatto addirittura 3 milioni e 4, che è veramente tanto. È una cifra ad altissimo livello. Sto sentendo in giro che, oltre ad essere andato bene, insomma, con la critica che è piaciuto, sto sentendo in giro che è andato molto bene anche con le persone, col pubblico. Piace tantissimo. Anche te sarà l'hai visto, no? Se lo merita, veramente. Se lo merita tutto. Sì, sì, secondo me sì. Tu quando sei andata? Che giorno della settimana? Sabato. Era pienone? No, proprio pienone, okay. No. Ok. Però insomma, comunque gli incassi sono altissimi. Il secondo è Ghost Movie, cioè uno di quei film che si fanno spesso, anzi si fanno a scadenza periodica, di presa in giro di un po' tutte le cose che sono accadute al cinema in questi anni. È un film americano, io lo dico con questa area di sufficienza perché non mi piacciono davvero, però piacciono tanto, tant'è che il secondo ha fatto 1.400.000, la metà di Django, che comunque... Perché la gente vuole farsi qualche risata, capito? Ha voglia. Me fanno ridere però sti film, io c'ho... Vabbè. Ah, però è un mio gusto personale. E poi terzo tiene alla grande la migliore offerta di Giuseppe Tornatore. Tiene veramente bene, perché insomma è stato secondo per due settimane, adesso è terzo, tiene dura tutti i colpi. Sta a 6 milioni totali e 1.2 questa settimana. Veramente mi ha sorpreso, perché pensavo sarebbe andato peggio. E invece è calato moltissimo Muccino. Dopo una settimana in testa è calato addirittura al quarto posto. Ce l'ha fatta. Distrugge lui? Lo sto sciogliendo io, questo è annodato, io lo sciolgo. Una domenica notte. Qual è una domenica notte? Una domenica notte. No, ma questo non lo fanno vedere alla stampa. Ma no, ma lascialo stare. Albano Giuseppe Marco, Antonio Andrisani, Francesca Faiella, Ernesto Maillieu, Claudia Zanella, Anna Ferruzzo. Vai. No, beh, questo non l'ho visto, ero impegnato. Ma come non l'hai visto? Non l'hanno proiettato alla stampa. Queste sono proiezioni carbonare che non fanno vedere alla stampa. Anzi, noi condanniamo questo, perché se andiamo avanti così va a finire che dobbiamo pagare i biglietti noi, Questa cosa va subito messa all'indice. Condanniamo questo. Sì. Tutti a puntare il dito, mi raccomando. Mannai. Quartet. È un film importante, perché noi qui parliamo sempre di queste bombone. Invece esiste anche un altro cinema, diciamolo. Cinema di denuncia? No. È un cinema così, leggero. Un cinema del pubblico delle 6 del pomeriggio dal martedì. Quartet è il primo film in assoluto diretto da Dustin Hoffman. non aveva mai fatto un film da regista, questo è diretto da Dustin Hoffman, e dopo che l'avrete visto vi spiegherete perché non aveva mai diretto un film. Il motivo è evidente, no? Per l'ho visto. È un regista, allora è la storia di questa, cioè, casa. Qualcuno ti vuole strangolare, io ambasciatore. È la storia di una casa di riposo per anziani musicisti, però dell'opera, quindi musicisti, cantanti lirici, cos'è. In questa casa di cura devono organizzare uno spettacolo, altrimenti la casa di cura fallirà, devono raccogliere i soldi, altrimenti la casa di cura fallirà. Ma che ideona! È grande, eh? E chiaramente ci saranno degli equilibri, perché è appena arrivata a risiedere lì una grandissima tenore, anzi una grandissima soprano che è stata grande in passato e che ci ha avuto una relazione con uno che sta lì da tempo, e proprio a loro chiederanno di rifare il famoso quartetto del Rigoletto che facevano, insomma, e questo si inserirà in una trama di un po' storia d'amore fuori tempo massimo e un po' qualcuno di loro che gli parte la brocca, perché poi chiaramente periodicamente questi qualcuno è preso da demenza senile, un altro muore, insomma, cioè queste trame da ospizio. Il film dovrebbe essere condotto su un terreno molto vivace, cioè dovrebbe essere dinamico, una commedia chiaramente da altri tempi, perché è destinata a un altro tipo di pubblico, ovviamente un pubblico coetaneo dei protagonisti, però dovrebbe, insomma, avere quelle qualità del cinema anni 50, anni 60, insomma, fatto con dialoghi serrati, anche perché c'è la grandissima Maggie Smith. Maggie Smith è una delle più grandi caratteriste per quanto riguarda i ruoli di anziana. È diventata famosa negli ultimi anni, cioè quando è anziana, e specialmente adesso per Downton Abbey. Lei è una di quelle di Downton Abbey, la serie TV. Qui ha il ruolo quello importante, è chiaramente molto brava, però la mano di Dustin Hoffman si sente che non è forte, perché il film non ha il ritmo, non ha quel rincorrersi di gag, di situazioni, anche quel che di commedia brillante che dovrebbe avere. È un film molto moscio, che se ci aggiungete anche che ha una trama moscia, è un disastro. No, madonna, cascano le braccia per terra, fine. Qualcuno le deve dire queste cose. Hai ragione. Senti, ma per quanto riguarda invece Broken City, beh, lo devo vedere settimana prossima. Russell Crowe, farò anche un'intervista. Farò anche un'intervista. Non a Russell, non a Russell. Lo so, ma ha detto che non veniva. Non gliela fa più. Non gliela faccio. Non vengo. Sta preparando il Gladiatore 2. Sotto tuo consiglio. Non è stato fatto il sequel. Lui mi ha detto, cioè Faster mi ha consigliato il Gladiatore 2, ma io non lo so. E io ho detto, continua così. Avanti così. Oh. Va bene, Bruce invece aveva. Scrivono. Sì, sì. Ambasciatore non porta pena. Bruce aveva già dato prova di aver scelto buona fantascienza con Il mondo dei replicanti o qualcosa del genere. Aspetto Looper, scrive Rufus. Giusto, devo dire che neanche io ricordo il titolo esatto, però era quel film in cui lui faceva anche l'esercito delle 12 scimmie. E anche l'esercito delle 12 scimmie. Bravo. T'ho bruciato. Quel film là, Il mondo dei replicanti, che non si chiama Il mondo dei replicanti, in inglese era Surrogates, surrogati, e non era male, però in effetti chiaramente il vero colpo di Bruce Willis di fantascienza è l'esercito delle 12 scimmie. Comunque sì, insomma, poi lui è uno che l'avrete notato, è uno che i film li sa scegliere. Adesso esce coso anche, no? Un sequel ancora di... Che è quella serie che ha fatto lui? Ah certo, esce il nuovo Die Hard tra poco. Die Hard 7, che è? Die Hard, aspetta, 5. Ambientato in Russia. Quanta nostalgia che hanno della guerra fredda, poverini. Quanto mi dispiace. Facciamoli esplodere, no? Dai, ci guadagniamo tutti. Arnie oggi mi sembrava pronto, eh. Oggi mi sembrava pronto. Oggi. Proprio... Cioè, guarda, di una cosa io parto. Ma invece questa settimana escono due film grossi proprio, che noi perché siamo avanti li abbiamo già anticipati settimane scorse, perché chiaramente noi siamo sempre avantissimo, però escono questa settimana e sono anzitutto Lincoln, che è il filmone politico, e io voglio vedere se settimana prossima il filmone politico stracandidato agli Oscar, cioè quello che viene pompato serio, batte Django, che comunque avendo fatto 3 milioni ancora ce n'ha da correre, comunque andrà bene. Poi il passaparola di Django è buono, sta piacendo a tutti, voglio proprio vedere se lo batte. Lincoln è il film su Lincoln, come si evince, candidato a 1000 Oscar, con un grandissimo Daniel Day-Lewis nella parte di Lincoln, purtroppo nella edizione italiana doppiato purtroppo male da Pierfrancesco Favino, cioè male, non è che sia non bravo Pierfrancesco Favino, è l'idea che c'è dietro, cioè fargli doppiare a Favino con una voce da vecchietto, cioè Favino imita la voce da vecchietto, che no, è un'idea dietro che proprio non sbagliatina ci sta. Sì, e questa cosa non aiuta un film che molto politico, come intendo molto politico, è un film che parla dell'approvazione del terzo emendamento, che è quello che abolì la schiavitù, quindi nel raccontare il processo attraverso il cui viene viene approvato un emendamento, cioè tutto quelli, il film si concentra sull'abilità politica di Lincoln, l'iter, che quindi le persone da convincere, i voti tra tra virgolette comprare nel senso cosa vuoi, ti do questo, ti do quell'altro, quell'arte della politica, poi anche un po' la figura di Lincoln, questi uno che raccontava spesso aneddoti, che gli piaceva fare il simpatico, ma in maniera chiaramente raffinata, non pensate a Berlusconi, in maniera raffinata, insomma, chiaramente in maniera molto, cioè poi è forte, io ci ho pensato, signore, perché, sì, no, è forte perché comunque anche lui racconta spesso le barzellette Lincoln nel film, però chiaramente è tutto un altro tipo di allure, l'Italia avrebbe cosa. Fatto mandati e mandati, avrebbe fatto i numeri, però comunque vi dicevo è un film molto calato nel sistema americano, infatti sono curioso di vedere che farà qui. Dall'altro lato, l'altro film molto grosso che esce è Flight. Flight è il nuovo film di Robert Zemeckis. Ma che doveva fare Ritorno al futuro, sto ragazzo. Gli ho detto fare Ritorno al futuro 5. E lui invece, lui è così, Lui è così. Hanno deciso una cosa. Hanno muovuto a me, poi c'è avuto una storia io con lui. Vabbè, lasciamo stare. Zemeckis, che poi porello, soldi buttati, non viene, non gli viene riconosciuto quello che merita, perché è uno dei pochi registi che un po' tutti noi abbiamo visto quasi tutti i film della sua filmografia, anche non cercandoli, non volendoli, perché ha fatto quasi tutti grandissimi film e quasi sempre poi è lui, è l'uomo che prende una nuova tecnologia, un nuovo ritrovato e la fa diventare, lo fa diventare famoso. È stato quello che ha reso famoso il motion capture, è stato quello che ha reso famoso le elaborazioni delle vecchie immagini con Forrest Gump, è stato il primo a mettere un personaggio di oggi nelle immagini di ieri, e poi ha fatto Roger Rabbit, insomma è uno che ha cambiato moltissimo nel mondo del cinema. E questo Flight con Denzel Washington è un film che ha anche lui questo piccolo momento che io non avevo mai visto, cioè un qualcosa di, che non si vede spesso, ovvero questo inizio con un disastro aereo. Lui è un pilota di aerei, Denzel Washington, che all'inizio del film si sveglia con a letto una donna bellissima, beve un bicchierozzo di whisky appena sveglio, si fa una pista di cocaina, pam, e va sull'aereo. Sta cosa da cocaina a te piace pure la settimana scorsa, perché no, perché è fatto per, io penso al film chiaramente, ce l'ho in testa, e quando si fa la pista di cocaina c'è un'immagine da Scorsese, sembra che l'abbia già da Scorsese, con la macchina che si avvicina, lui che tira e poi parte la musica a mille e lui esce al rallentatore tutto figo dalla stanza. È un momento fatto bene, e poi quello che gli succederà nell'aereo non sarà colpa sua, cioè l'aereo avrà un malfunzionamento subito, nei primi 10 minuti avrà un malfunzionamento e lui rimedierà in una maniera, rimedierà poi parzialmente in una maniera pazzesca. E il film purtroppo poi diventa come si viene a patti con quello che è successo. Lui si pentirà di essere un alcolista, non lo so, è un film che poi tende al buono. Comincia con questo antieroe che fa una cosa pazzesca pieno di alcol e di droga, e invece poi diventa l'americano, peccato, medio. Peccato, infatti, peccato. È un vero peccato. Oh, ti do una notizia, chi dirigerà il nuovo Star Wars? Lo so. Lo so, e io già so come sarà, perché io poi lo conosco a lui, J.J. Abrams. L'ha letto lì, bastardo. Ma no, ma lo so, è di ieri. Online, già si trovano le mie notizie al riguardo. Scritta stamattina col sudore della fronte prima di andare da Arnold. Sì, J.J. Abrams, ma lo sai che la cosa divertente è che in questo mese, più o meno un mese, che la Disney ha comprato tutta la roba di Lucas. Cioè gli ha aperto la valigetta e secondo me Lucas la voleva vendere, non gliela faceva più, perché comunque se la avete visto più, fa che? Se tu a hai essere visto, ricco, no, se tu hai visto c'è un documentario fatto apposta su questo che si chiama The People vs George Lucas, che è tutto su la relazione che hanno i fan morbosa e maniacale con Guerre Stellari, con l'universo di Guerre Stellari e con il fatto che la nuova trilogia non è piaciuta, e si capisce che lui ha sviluppato negli anni, nei decenni, un rapporto pessimo con i fan, cioè di antagonismo, non ne può più, non li sopporta e ha quasi un rapporto di rivalità, perché intorno a Guerre Stellari c'è un fanatismo, sì, che maniacale, fa sì che la gente sì. Poi si appropri, cioè la gente rifà i film, allarga questo universo, vorrebbe che fosse suo, e invece Lucas si è messo in competizione e continua a dire no, tutto questo è mio, e ogni qualvolta qualcuno protesta e magari dice, che ne so, lui anni fa modificò una parte del primo film di Guerre Stellari facendo in modo che Han Solo, il personaggio di Harrison Ford, spara per primo all'alieno. Mentre invece no, scusa, spalla per secondo l'alieno. Mentre nell'originale lui vede questo alieno a tavola e gli spara, in quello modificato l'alieno spara a lui, lo manca e lui spara. Questa è una cosa che ai fan non è piaciuta per niente, perché modifica il personaggio, perché lo preferivano più bastardo. Lucas ha cancellato tutte le versioni vecchie. Cioè, se tu vuoi ad oggi comprare, affittare, noleggiare il vecchio Guerre Stellari, non esiste. Non esiste. Esiste solo il nuovo. E l'ha fatto... Come non esiste? Non esiste, esiste solo la versione rifatta da Lucas. Io che ho il vecchio DVD. No, ok, sì, se lo vuoi comprare, dico, chi ce l'ha registrato, per carità, ce l'ha e lo tiene. Però lui l'ha fatto cancellare dal mercato, non viene più prodotto. Oh, porca miseria. Per ribadire, questa roba è mia, non vostra. Insomma, ha un rapportaggio. Per questo io dico che secondo me alla fine se ne è voluto sbarazzare, non gliela faccio più. Se ne è sbarazzato. Chiaramente poi non è che ha rinunciato ai soldi, perché la Disney l'ha pagato. Questa roba immagino che se paga. Parecchi danari. E insomma, in questo mese che è passato tra che la Disney l'ha comprato e che oggi, ieri, J.J. Abrams è stato appuntato come nuovo regista, e uscivano notizie di gente che rifiutava. Cioè, nell'ordine, l'hanno rifiutato... Ma il nuovo film? Sì, hanno rifiutato di dirigere. Guillermo del Toro. Ah. Ha rifiutato. Dicendo, c'ho un sacco di cose da fare. No, vabbè. Che sa proprio di, no, no, regà, no, io non la posso, cioè, qui finisce male, ma meno, cioè, finisce male. L'ha rifiutato Rian Johnson, che è il regista di Looper, che dicevo in America è uscito da parecchi mesi, quindi già ha avuto successo e loro avevano pensato bene di prendersi questo forte. Ah, ma ha avuto successo in America? Sì, di prendersi questo forte con la fantascienza, il quale gli ha detto, no. No, cioè finisce è male. Una cosa troppo sì, no, ma poi la gente mena, ha detto proprio. E aveva detto di no J.J. Abrams. Io me lo ricordo, due settimane fa era uscita la notizia che J.J. Abrams aveva detto no, perché io ho già fatto Star Trek. Ho fatto Star Trek, ragazzi, cioè non è che posso fare entrambi. Dai, sarebbe ingiusto, dai. Ieri ha accettato. Questo perché, uno, sicuramente la Disney ha aperto la valigetta. Cioè, ha aperto la valigetta di contanti. Ha aperto sicuro la valigetta, ha portato un camion. No, probabilmente, ha dato le chiavi. Probabilmente, ha dato le chiavi del camion. E secondo, non bisogna dimenticare che Lost, la grande serie di J.J. Abrams, che gli ha dato il vero successo, anche se lui prima aveva fatto altre cose, però Lost è la cosa, è della ABC. ABC è il canale televisivo della Disney. Quindi lui è uomo Disney. Ah. Più di tanto dove scappi? Abbiamo detto che, cioè, te l'abbiamo chiesto, ripeto, vuoi fare Guerre Stellari? Ah, ecco, ho capito. Esatto, ecco, lui ha detto sì, mi piacerebbe fare Guerre Stellari. Ma lo faccio io. Ma figurati. Quindi per la prima volta uno che ha fatto Star Trek farà Guerre Stellari, che erano le grandi serie di fantascienza rivali. Uno che ha fatto Star Trek farà Guerre Stellari, vedremo come sarà. La verità è che poi sappiamo come sarà, cioè sarà, non sarà mai meglio della trilogia originale, perché non lo sarà, e non sarà mai peggio della nuova. Ma sarà un'altra trilogia? No. Probabile, secondo me sì. E non sarà mai peggio della nuova. Sarà una cosa tra le due. 3D, lui, sicuro. Lui poi, e comunque lui è uno bravo. 48 bit. Sarà tutto. Lui fa, se conosco, ho capito bene dai suoi 3-4 film, è uno che dirige svelto, montati svelti, un film che corre, il che gli fa bene. Insomma, sarà sicuramente dei buoni film, senza però quel respiro ampio, chiaramente, non credo che ce l'avrà. Però, chissà, magari. Perché, dai, vediamo più che altro se lui ci mette la fissa sua. Lui ha una fissa che mette in quasi tutti i film, che è il viaggio nel tempo. Cioè, in quasi tutti i film suoi c'è il viaggio nel tempo, e voglio vedere se ce lo mette in questo qua. Bene, siamo arrivati quasi alla fine, sono le 18.51, hai altro da aggiungere? Sì, abbiamo parlato di tutti i film grossi che escono, cioè ci sta Django in sala, arriva adesso Flight con Denzel Washington e Lincoln, e settimana prossima ci stanno Looper, Last Stand, insomma, stanno uscendo tutti i film grossi. In tutto questo c'è un film italiano che tenterà disperatamente di farsi valere, che è Pazze di me. Verrà stritolato, secondo me, cioè finirà male, non lo andrà a vedere nessuno, e sarà una delusione cocente per uno che è considerato il mago del box office italiano, cioè Fausto Brizzi. Pazze di me, il nuovo film di Fausto Brizzi. Fausto Brizzi, vi ricordo che non ha mai incassato meno di 10 milioni di euro con i suoi film. Ricordami qualche film suo. Allora, lui è uscito fuori, lui sceneggiava i Cinepanettoni prima, era scritto i Cinepanettoni. Poi è uscito fuori forte con Notte prima degli esami, Notte prima degli esami 2, ha fatto Maschi contro femmine e Femmine contro maschi, due film separati, operazioni commerciale molto intelligente, ha fatto Ex e ha fatto Come bello far l'amore, l'ultimo film. Tutti hanno fatto più di 10 milioni, ripeto che è tanto soprattutto per 6 film tutti così. Questo secondo me è la volta che casca male, e per lui sarà dura, perché lui poi si vende molto il personaggio del dite quello che vi pare, io però ho capito io come si fa, so come il capo. Sì, no, io ho capito come vendere i film, quindi dite quello che vi pare, magari non vi piacciono e vabbè, però su questo non mi rompete le scatole. E qui si fa male, perché la posizione è, non, adesso non voglio dire sbagliata, perché sembra che io muoio so tutto, però evidentemente con questi film qua finisce male. Sapete che cosa non mi piace di voi americani? Tutto quanto. Soprattutto i cowboy. Americano. Sì, New York. Poliziotto. Sì. Farà un bel botto. Come hai fatto a capirlo? Non ha faccia d'avvocato. Jack! Papà! Questo che fai? Lo 007 di Plainfield, New Jersey. Rilassati, sei al sicuro. Atterro! Ma lui ha un figlio, aveva una figlia. Questo è un trailer che non promette cose che non può mantenere. Sì, no, beh, immagino perché... Ma avevano figli, adesso anche un figlio si scopre. Questo sarà un bel twist, cosa veramente incredibile. Cosa come, farebbe pure di continuare? Come fa a fare? Da dove viene fuori un figlio in russo? Sì, infatti secondo me, vabbè, vediamo, cioè io sono dubbioso. Questo è Die Hard, il trailer del nuovo. Giusto, è Die Hard 5, il trailer del nuovo Die Hard che esce tra poche settimane. Secondo me, non lo so, secondo me sarà meglio il ritorno di Arnold, secondo me, alla fine. Io lo vado a vedere, mi dispiace, caro mio. Ah, ti devo far vedere una cosa, scusa. Sì, visto che qui siamo in televisione. Sì, no, purtroppo non ve lo posso far vedere, ma Arnold aveva, se andate su Facebook vedete le foto, Arnold aveva un anello con un teschio incredibile. Che è quello dei mercenari. Lo pensavo anch'io, quando l'ho visto, ho pensato il teschio dei mercenari. Da vicino, no, ti rendi conto che è ancora più geniale, lui è oltre questo. È il teschio di Terminator, è il Terminator senza pelle. Lui è oltre anni luce. Cioè va in giro con l'anello di Terminator. Allora qui purtroppo in questa foto non si vede. Lui aveva l'anellone col teschio, cioè voi non lo potete vedere ma è veramente grosso. Grosso tanto. Una catena al braccio che era la catena della mia bici. Cioè era una cosa veramente grossa, tanto larga poi. Ma d'oro di le coatte. Sull'altra mano un anellone con l'aquila americana. D'oro, chiaramente d'oro, è perché mica è. E un orologio cronografo, vabbè, ok, c'è cioè, il Big Ben, chiaramente. Guarda, era pesantissimo, veramente pesante. Vabbè, grazie Sara, grazie. Grazie a te. Ci vediamo venerdì. Se tutto va bene. Speriamo. Vediamo, dovrebbe andare tutto mamma bene. Mamma mia. Grazie Vasquez, a venerdì prossimo. Venerdì prossimo anticipiamo qualche cosa. Venerdì prossimo, a parte che uscirà il film di Schwarzenegger, uscirà Looper, ma uscirà anche un film interessante che si chiama The Impossible, che è un film sul lo tsunami. È una cosa che devo dire, allora a me non piace quando gli americani fanno queste cose, perché decidono di fare un film sullo tsunami, ma è un film su una famiglia americana che si trovava lì nel momento dello tsunami, manca a dirla, che non è mai il massimo. E poi esce I Miserabili, grande colossal, anche questo candidato a 1000 Oscar, con Russell Crowe, Hugh Jackman e Anne Hathaway, che io già ho visto, musical. C'è una prima parte forte e la seconda meno. A me piace molto la storia dei Miserabili, però funziona a metà. Però se vi piacciono i musical è imperdibile, chiaramente. Lasciamo tutto in mano a Tamagnini. Dove stai, Tamagnini? Eccolo. Oh, come va? Bene. E gioivo quando diceva che Brizzi farà il tonfo. Questi film non che gli sta, aspetto non gli che sta fa simpa- il tonfo. Non ti sta simpatico? Insomma, no. Si può, eh? No. Meglio Bruce Willis e Die Hard. Almeno lì popcorn è assicurato. Porca miseria. Grazie a tutti, per quel che mi riguarda è tutto, ci sentiamo martedì pomeriggio, stessa frequenza, stessa radio, ore 18. Buon resto di Radio Città Aperta con Tamagnini e poi i Baba Bunta Misti e poi la elettronica. Però credo, sì. A martedì.